Benvenuto a tutti, grazie per la vostra partecipazione a questa presentazione online. E spendo un minuto per illustrare lo strumento che stiamo utilizzando. Si chiama DimDim, è gratuito fino a 20 utilizzatori. Anche voi, se volete iscrivervi, potete organizzare presentazioni di questo tipo molto facilmente. Utilizzate la chat liberamente durante la mia presentazione per porre delle domande. Dedicheremo successivamente parecchio tempo per la discussione. Questa potrà essere fatta sia attraverso la chat testuale che utilizzando la voce. Abbiamo, oltre al mio, altri tre microfoni disponibili e potete quindi chiedermi di assegnarvi un microfono perché possiate parlare. Naturalmente dovrete avere a vostra volta tutto quanto tecnicamente abilitato perché questo possa funzionare. Se una volta assegnato il microfono vedo che non riuscite tecnicamente a farlo funzionare dal vostro lato, vi chiederò di scrivere le vostre domande. Grazie per le conferme da parte di coloro che sentono l'audio, spero che andrà bene per tutti e che quindi questa esperienza sarà utile anche per successive presentazioni che eventualmente vorremo organizzare. Partiamo quindi a cercare di capire come utilizzare la rete di Startup Business al meglio. Spenderemo circa un'ora suddivisa in questa maniera. Parleremo una decina di minuti della natura della rete stessa. Spenderemo poi altri 10 minuti per parlare dell'utilizzo di base, che può essere per esempio la personalizzazione di base della pagina personale dei membri, e finiremo con 10 minuti di utilizzo avanzato, che può essere per esempio l'uso della ricerca oppure altri elementi. Avremo quindi circa 30 minuti che dedicheremo alla discussione, che quindi potrà essere molto interattiva e vi esorto di cominciare a scrivere le vostre domande direttamente nella area di chat per poi riprenderle alla fine. Vediamo quindi qual è la natura del network di startupbusiness.it. È una rete, un social network che unisce startup e imprese, con la partecipazione anche di altri protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione. Questi possono essere investitori, incubatori, università, acceleratori di impresa ed altri. Comunque, l'attività del network si concentra sul quello che viene chiamato business match. Quindi il nostro obiettivo è quello di far conoscere le nostre startup, descrivendone le attività al meglio e attivamente prendere contatto con altre startup che fanno attività complementari alle nostre con cui trovare delle partnership e prendere contatto con potenziali imprese che possono approfittare dei servizi o dei prodotti che offriamo o che possono avere bisogno effettivamente di quell'insieme fertile di idee che la nostra startup ha portato ad emergersi. Quindi questo business match richiede sicuramente una partecipazione attiva da parte dei membri della rete affinché queste nuove opportunità possano emergere. E tutti gli strumenti che man mano introdurremo, oltre a quelli che già esistono e che oggi vedremo in dettaglio, riguardano proprio come abbassare le barriere al fiorire di queste opportunità, alla possibilità di creare collegamenti fertili. Diamo intanto il benvenuto ad Emil. Che è appunto l'ideatore di questo network. L'innovazione di cui parliamo naturalmente è un'innovazione molto concreta, un'innovazione che si esprime attraverso le start-up che ispirano però all'azione a loro volta le imprese con cui si mettono in contatto. Già la rete è stata promossa non solo a mano attraverso gli inviti che sono stati mandati ai membri che si sono iscritti. Una delle vostre domande posta sulla pagina dell'evento che abbiamo organizzato è stata: come dovete comportarvi relativamente alla promozione della rete. InnoVab, che è la società della Camera di Commercio di Milano, ha inviato proprio un paio di giorni fa a 15.000 propri associati una newsletter sulla cui prima pagina c'è proprio il nostro network, imprese e startup insieme per innovare. Questo naturalmente non può che portare alla diffusione delle informazioni sul network e ad ulteriori iscritti. La promozione esterna può avvenire naturalmente anche su vari blog, sia istituzionali, come può essere questo che vedete adesso sullo schermo, che personali, come per esempio il post scritto da Paolo Savini, uno dei membri di Imprese e Startup, che poi guarderà questa presentazione in registrato e quindi spero sarà contento di essere stato anche citato. In questo post è stato anche inserito un video che è stato presentato da Emil direttamente sul network di YouTube, eccovi la slide giusta del video di Emil. Prima avete visto forse un po' di sfarfallio sulle schede perché ho sbagliato bottone nell'avanzamento delle slide. Ognuno di questi strumenti quindi è a vostra disposizione. Startupbusiness.it, imprese e startup insieme per innovare, non ha un limite sul numero totale degli iscritti, quindi sono tutti benvenuti e tutti i membri sono benvenuti ad invitarne altri. Più si è, meglio è. Qual è il criterio naturalmente di ammissione? Che le persone che partecipano sappiano che questo network è orientato al business match, come abbiamo detto prima, e che quindi riceve volentieri i contributi attivi di start-up, di imprese, di investitori, di incubatori, di acceleratori di impresa, università, eccetera. Non è comunque una rete di incontri sociali come possono esserne tanti altri. E quindi i vostri inviti dovranno tener conto di questo. Ad oggi la rete comunque è su approvazione del iscritto e quotidianamente sono diversi membri nuovi che vengono approvati. Vediamo quindi nella seconda sezione della nostra presentazione di oggi l'utilizzo di base, a meno che non abbiate qualche qualche domanda che riguarda la prima sezione della presentazione. Ecco, Emil, ti confermo che puoi avere anche il microfono se vuoi, quindi posso inserirti affinché tu parli attivamente ai partecipanti. Desideri intervenire, desideri brevemente commentare su quello che ho detto relativamente agli obiettivi del network oppure il modo in cui i membri già iscritti possono promuoverne le attività al di fuori della rete stessa? Ok, allora attendi che ti assegno il microfono. Ecco, adesso hai il microfono assegnato. Confermo per iscritto quando ti sentiamo. Parla pure. Grazie Emil della tua precisazione, sicuramente quello di porsi in modo attivo all'interno del social network di Startup Business è uno degli elementi più importanti. Andiamo quindi nella seconda sezione della nostra agenda che riguarda l'utilizzo di base della rete. Ognuno di voi ha superato naturalmente il primo impatto dell'iscrizione, dove chiediamo che venga utilizzato il nome e cognome della persona. E raccomandiamo fortemente che venga assegnata anche una fotografia al profilo. Questa è una rete di persone, una rete di imprenditori vecchi, nuovi, ma comunque una rete dove le persone si incontrano, sviluppano anche rapporti di fiducia, rapporti di business. E quindi l'impatto iniziale della identificazione tradizionale è importante. Sì, Francesco, sono persone giovani, ma anche se fossero meno giovani, sono sicuro che saprebbero, contribuire attivamente e partecipare con efficacia, come è giusto che sia. Come vedete, anche direttamente al momento dell'iscrizione potete utilizzare la rete stessa per mandare degli inviti agli altri. Io raccomanderei di non mandare inviti a tutta la vostra rubrica, anche se comodamente il sistema permette di appoggiarsi alla rubrica per effettuare l'invio degli inviti. Successivamente, la cosa più importante è la personalizzazione della pagina personale, dove è possibile vedere le informazioni di base inserite in fase di registrazione, nome, fotografia, luogo di lavoro, di residenza, ma dove ci sono diverse sezioni importanti su cui aggiungere informazioni alla rete. Rispondo subito a Giovanna che chiede se è possibile essere avvisati quando quando si riceve un nuovo iscritto. Questo tipo di impostazioni si possono controllare con una buona granularità, quindi si può ricevere avvisi quando c'è un nuovo iscritto in generale oppure quando c'è un nuovo membro di un gruppo, perché in effetti il network è suddiviso in diversi ambiti. Intanto si hanno i propri contatti e questo è il prossimo passo utile da fare. Quando si viene iscritti, si se l'invito è stato ricevuto da un membro, questo viene aggiunto automaticamente come contatto, i famosi amici, come si dice in termine di social network. Ed è utile scorrere l'elenco degli iscritti per vedere se ci sono altre persone che si conoscono già ed aggiungerli. Ma io raccomando anche di aggiungere persone senza troppe remore anche attraverso una comunanza di interessi. Oppure se vedi che qualcuno ha commentato sul tuo profilo, oppure hai scritto tu un commento sul profilo di qualcuno che si è iscritto, ecco, queste possono essere occasioni molto immediate per stabilire un contatto diretto e quindi inserirsi reciprocamente negli elenchi degli amici di uno dell'altro. Attualmente i gruppi sono utilizzati per designare delle appartenenze di categoria, quindi ci sono i gruppi di start-up, parchi scientifici, incubatori ed acceleratori di impresa, imprese, investitori, enti pubblici e università. E è stato creato in effetti da uno dei membri del network un nuovo gruppo che ha chiamato Bocconiani, all'interno del quale attualmente ci sono 5 membri. Nessuno impedisce a voi stessi di creare nuovi gruppi in base non più a questi criteri di appartenenza a certe categorie, bensì in base ad un criterio magari di interesse comune che possono riguardare, non so, il marketing, oppure possono riguardare tecnologie come quello delle presentazioni che stiamo utilizzando adesso, oppure realizzazione di video da mettere su YouTube o altri interessi comuni. Quindi è una delle cose che potete fare per rendere, come diceva Emil, il network utile a voi, alle vostre attività. Il gruppo startup che menziono specificamente perché la maggior parte dei partecipanti alla presentazione di oggi appartengono a questo gruppo, funge anche, in una forma che stiamo ancora ultimando, da vetrina delle startup. Vedete su questa scheda una versione preliminare di un'aggiunta al network che è stato da noi realizzato. L'ha realizzato uno dei membri, Marco Abiuso, che è anche uno degli amministratori del network. All'interno di questo modulo vengono automaticamente visualizzati i loghi dei partecipanti al gruppo. Questo è il punto di partenza con cui poi costruiremo anche ulteriormente visibilità alle start-up, creandone appunto una vetrina. Una delle domande che è emersa in fase di organizzazione di questo incontro online è stata la paura di un membro di sbagliare, quindi chiedeva che cosa assolutamente non fare. Come spesso accade in queste occasioni, la prima raccomandazione è usare il buon senso. Quindi, se c'è la possibilità di mandare un messaggio a tutti i membri del gruppo, si può pensare se effettivamente quello che si vuole scrivere è rilevante per tutti. Tra poco vedremo diverse, serie di strumenti e magari può essere più adatto un post di blog invece che un messaggio email, oppure l'utilizzo del forum di discussione. Io direi che il criterio più importante per capire se qualcosa che si vuole fare è appropriato o meno è il criterio della rilevanza. Rilevanza non solo per noi, ma rilevanza anche verso tutti coloro con cui vogliamo eventualmente comunicare. Per il resto, come diceva Emil, vogliamo incoraggiare gli iscritti al network di essere partecipanti attivi, fare delle cose. Quindi non abbiate paura eventualmente di sbagliare. Nel momento in cui sbagliate, non casca il mondo, vi si correggerà con gentilezza e con educazione e non verrete espulsi dalla rete e improvvisamente allontanati. Ok, sono rientrato, spero che mi sentiate tutti, grazie per la vostra pazienza. Ecco, vedete, stavo parlando di errori e di non aver paura di commettere errori. Tanto per darvi qualche informazione, così da insider, questo strumento è molto recente e anch'io l'ho utilizzato poche volte. Quindi, non è che abbia avuto modo di testarlo in decine o centinaia di occasioni, comunque lo utilizziamo e siamo anche abbastanza fortunati perché il sistema risponde bene anche lui agli errori. Allora, parlavamo di utilizzo avanzato. Su questa schermata vedete una delle pagine utenti, quello di Gianluca Dettori, che è un investitore della società di venture capital di Pixel, che ha personalizzato per esempio la propria pagina in modo più spinto, anche graficamente, quando voi avrete occasione di andare direttamente nel network e vedere la sua pagina, vedrete che ha inserito anche video. Insomma, ha fatto parecchie cose per rendere sua propria questa pagina. Questo è utile non solo perché imparate ad usare il network, ma data un'impronta importante, una comunicazione di padronanza di questi strumenti e di presenza, di partecipazione anche a coloro che visitano la vostra pagina, mentre una pagina che non è stata magari toccata da quando il membro si è iscritto, al contrario, dà l'impressione di un relativo abbandono. Qua vedete una sezione della pagina personale mia, dove ho inserito non solo un video che vedete in basso da YouTube, ma anche un documento PDF che può essere scorso, letto, consultato direttamente all'interno del browser, oppure se si vuole può essere scaricato per chi venga stampato oppure consultato anche offline. Un altro elemento importante che appartiene ad un utilizzo che non è particolarmente avanzato da un punto di vista tecnico, ma è avanzato in termini di esposizione di se stessi verso i membri del network, riguarda la possibilità di scrivere dei post di blog. Molti di voi saranno familiari con il termine blog, che sono da ormai 7-8 anni sul web questi diari personali di racconti, di accadimenti, di opinioni, di idee, che possono essere condivise per creare conversazioni persistenti, conversazioni che si possono ritrovare nel tempo e che possono essere incrociate per creare rilevanza ai messaggi che vogliamo trasmettere. Gli amministratori del network hanno la possibilità di promuovere delle conversazioni, quindi in prima pagina, che acquisiscono maggiore visibilità e che quindi danno visibilità alle vostre idee, danno visibilità alla vostra impresa iniziativa. Così come ho fatto io, per annunciare l'organizzazione di questa sessione di illustrazione della potenza del network, anche voi potete creare eventi. Vedete qui, per esempio, l'evento creato da uno degli utenti del network relativamente ad un corso fisico che fanno addirittura l'anno prossimo, a un mese circa da adesso. Quindi incoraggiamo anche voi, tutti i membri, ad illustrare le proprie attività anche inserendo degli eventi, che possono essere fisici, come questo che vedete sullo schermo, oppure possono essere anche eventi online, come quello a cui state assistendo. Se vi fa piacere, per esempio, uno dei prossimi eventi online potrebbe parlare di qualche strumento, come si utilizza al meglio YouTube per la comunicazione aziendale, oppure come si utilizza DimDim, che è la piattaforma che stiamo usando adesso per questa presentazione. Io sono a vostra disposizione, mi potete mandare direttamente una comunicazione mettendo un commento sulla mia pagina personale nel network e se vedo che c'è interesse lo organizziamo senza problemi. Un altro strumento di comunicazione che sta iniziando ad avere un certo successo all'interno del network con i membri più attivi sono le discussioni. Ognuna di queste sezioni, tra l'altro, eventi, discussioni, blog e così avanti, se vi accorgete, sono delle schede che trovate nella barra di navigazione del network stesso. Le discussioni sono molto appropriate per affrontare argomenti che hanno bisogno di un certo approfondimento, vengono condotte in pubblico, quindi visibile a tutti, e permettono di tenere traccia delle opinioni espresse dai diversi membri fino a raggiungere un consenso o comunque esaurire l'argomento trattato. Vedete qua che ci sono persone interessate a capire come meglio affrontare i propri problemi di marketing, oppure ci sono imprese stesse come Microsoft che offrono risorse agli start-up per affrontare meglio le sfide che hanno avanti. I messaggi personali sono uno strumento di comunicazione diretta. Non sono visibili al pubblico e permettono di parlare direttamente da un membro all'altro, così come di fatto nell'email. Se scegliete di utilizzare i messaggi personali, comunque l'iscritto riceve un'email di avviso sul fatto che ha ricevuto un messaggio personale da consultare sul network. Un altro strumento che vi raccomando di utilizzare, anche perché magari non ve ne accorgete, la sua posizione originaria è in alto a destra sulla finestra del network, vicino all'icona della vostra iscrizione, un'icona di allerta e un'icona che avvisa su messaggi ricevuti, è questo della ricerca, dove è possibile effettuare la ricerca su una qualunque parola o un gruppo di parole all'interno del network e questo restituisce risultati rilevanti a quella ricerca e quindi vi permette di sapere se, per esempio, qualcun altro ha parlato di una promozione di ricerche farmacologiche, di marketing web o altro. Ecco, io ho terminato, come anticipavo, l'agenda della prima mezz'ora. Quindi abbiamo parlato della natura del network, abbiamo parlato dell'utilizzo di base e abbiamo visto come personalizzare in modo avanzato le pagine e le sezioni del network, come utilizzare diversi strumenti del network. Adesso vorrei dedicare del tempo, se siete d'accordo, alla discussione più interattiva, affinché si possa rispondere a vostre esigenze più approfondite, oppure se avete semplicemente delle note da fare, possiate farlo. Abbiamo dei microfoni a disposizione se qualcuno vuole intervenire a voce. In tutto ne abbiamo quattro, quindi fino a tre persone aggiuntive oltre a me possono parlare. Se preferite potete anche scrivere. Se non avete al momento delle domande, dopo 2-3 minuti di attesa, chiuderemo la sessione e come anticipavo all'inizio, questa sarà poi disponibile anche in forma registrata online. Quindi se avete colleghi o altre persone che non, hanno avuto modo di assistere in diretta, comunque potranno vedere la registrazione.